In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: "Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello". Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo destava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: "Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò". E le giurò più volte: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno". Ella uscì e disse alla madre: "Che cosa devo chiedere?". Quella rispose: "La testa di Giovanni il Battista". E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: "Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista". Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporre un rifiuto, e subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. Oggi è la festa del martirio di San Giovanni Battista. In questo brano vediamo come le relazioni sono molto importanti, come Giovanni Battista è veramente un uomo libero e si relaziona con libertà, mentre tutti gli altri personaggi, Erode, Erodiade, la figlia di Erodiade, sono tutti personaggi, persone che non hanno relazioni sane tra di loro. E da che cosa lo si vede? Lo si vede dal fatto che non sono libere, sono condizionate e sono manipolate, si manipolano a vicenda. Ad esempio, vediamo che Erodiade è tutta concentrata sull'affetto per la figlia, ma al tal punto che la figlia non è libera di decidere quello che vuole, deve chiedere alla madre quello che vuole. Vi immaginate una ragazza, un adolescente che vuole la testa di un profeta? Ma che cosa volete che gliene poteva importare di avere la testa di un profeta? Ma invece vuole fare contenta la madre e vuole fare contento anche quest'uomo, l'amante della madre, perché danza per piacere a quest'uomo e a tutti gli altri dignitari, ufficiali, eccetera. Erode non è libero perché non può, diciamo, lasciare in libertà Giovanni perché Erodiade ce l'ha a morte con Giovanni e quindi lo fa arrestare e lo mette in prigione, però non è libero nemmeno nei confronti della gente perché ha timore sempre di quello che possono pensare gli altri. Dopo che ha visto la figlia di Erodiade danzare bene, le promette qualunque cosa questa le possa chiedere. Quando la ragazza le chiede inaspettatamente la testa del Battista, lui non è capace di opporsi per paura di quello che potevano pensare di lui gli altri. Vedete tutti i condizionamenti. Quando una relazione non è sana, quando si ha paura dell'altro, quando si ha paura del giudizio dell'altro, quando non ci si comporta liberamente, quando si è o soggiogati dall'altro o si soggioga l'altro, o si è manipolati o si manipola. Allora oggi facciamoci questo esame di coscienza. Quando Più che esame di coscienza, vediamo come sono le nostre relazioni. Sono libera nella mia relazione, riesco a dire quello che voglio e a comportarmi come decido io di comportarmi, o il mio comportamento è condizionato da quello che pensano gli altri o da quello che pensa l'altra parte della relazione. Vedete Giovanni Battista com'è libero, lui non si vergogna di dire la verità anche a Erode che era un re, lui si relaziona anche con le alte cariche dello Stato perché è libero, un uomo libero si relaziona con tutti. Allora domandiamoci, sono libera nelle mie relazioni? Le mie relazioni sono sane? E se non sono sane, devo dire basta a queste relazioni tossiche che mi stanno togliendo energia e vita e chiedo al Signore la grazia di vivere relazioni sane. E come faccio? Prima di tutto ne prendo consapevolezza che le mie relazioni non sono sane e poi cerco di non assecondare quei comportamenti, quelle dinamiche che le rendono sempre più tossiche. Buona giornata.